9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 21 di agosto da Oscar Giannino. Come vedete, quando ci sono dei giorni in cui il differenziale sui titoli del debito pubblico italiano decennale rispetto a quelli tedeschi scende e cominciano poi a tornare le lettere che dicono via il corvo Giannino, via il malefico che insulta la possibilità che l'Italia vada meglio, ci pensa sempre qualche vicenda internazionale a ricordarvi che DORS, e vengo anch'io, no tu no, il no tu no è relativo agli euro deboli da parte degli euro forti, resta il copione su cui leggere la vicenda di mercato. Oggi, per chi fosse interessato, ho scritto sul Messaggero Gazzettino Mattino la mia interpretazione di che cosa è avvenuto dietro i no tedeschi che trovate sui giornali di oggi da parte della Bundesbank agli acquisti di titoli sulle formule che si starebbero studiando in vista del Consiglio europeo della BCE del 6 di settembre per gli acquisti di titoli oltre una certa soglia di spread per gli euro deboli, e dietro anche le precisazioni contrarie a queste modalità che il portavoce del ministro delle finanze Schäuble tedesco ha diramato ieri. Quel che è evidente, per stare a l'ultimo numero dell'Economist, è che davvero forse sul tavolo del cancelliere tedesco, per quello che abbiamo visto in queste ultime due settimane, c'è un memorandum, e in quel memorandum c'è sia l'ipotesi A di un'uscita dalla Grecia, e viene considerata dall'Economist l'uscita dalla Grecia come più o meno il 4,5% del PIL tedesco, sia un'ipotesi B. L'ipotesi B è l'uscita dall'euroarea di 5 paesi. E la notizia è che non c'è l'Italia in quei 5 paesi, visto che si tratterebbe di Irlanda, Portogallo, Spagna, Cipro, Grecia, ma non dell'Italia. E questa seconda però ipotesi costerebbe alla Germania non il 4,5 ma tre volte tanto del suo PIL. Eppure, conclude l'Economist presentando questa finta, tra virgolette, ma forse vera bozza di memorandum sul tavolo del cancelliere tedesco, la conclusione è: varrebbe seguire l'ipotesi B, varrebbe la pena, perché per quanto più costosa per la Germania e per gli euroforti, metterebbe un punto finalmente al fatto che il mercato non crede che i paesi eurodeboli possano ulteriormente andare oltre sulla via della deflazione, della disoccupazione, della contrazione delle economie per i tagli che gli si chiede di fare. E siccome non ci crede il mercato, ha ragione a non crederci, tanto vale fare un punto e a capo, fissare dei margini di oscillazione delle valute di questi paesi che uscissero con l'euro, diversi da paese a paese, e tornare a concentrarsi su un'euroarea più solida. La notizia è che l'euro d'Italia non uscirebbe, e non uscirebbe perché il criterio in questo memorandum sul tavolo della Merkel è quello di valutare il totale del debito netto, sia pubblico che privato, di un paese rispetto al suo PIL, e noi, grazie al fatto che gli italiani, noi tutti siamo formiche, non come lo Stato dilapidatore ci cala, abbiamo un totale del debito netto che è solo pari al 21% del PIL, ripeto, totale debito netto tra pubblico e privato. Pensate che gli Stati Uniti sono al 27%, mentre nei 5 paesi dati in uscita su questa ipotesi di memoriale sul tavolo della cancelliera tedesca, il totale del debito netto sul PIL di quei 5 paesi che vi ho detto sta tra l'80% e oltre il 100%. Detto questo, all'Italia non resta che tirarsi sulle maniche euro non euro, aiuti non aiuti, e tentare di vedere come abbattere il suo debito pubblico, come diminuire la spesa dando meno tasse nel lavoro e nell'impresa, soprattutto a chi ha meno. E questo è ciò che vi invito a riflettere. Trovate sul sito www.fermarealdeclino.it e invito tutti ad andare a leggere, a vedere se e non sia caso di aderire, ma ci torneremo in una di queste prossime puntate. Oggi però parliamo d'altro. Parliamo d'altro perché l'atmosfera politica si è arroventata e mediatica si è arroventata su un nodo che è quello della giustizia. E un nodo, quello della giustizia, che da tempo non mi appassiona perché è diventato nel ventennio alle nostre spalle, quello della Seconda Repubblica, un classico crinale destra-sinistra che ha rappresentato in maniera direi esemplare da una parte il confronto tribale tra due schieramenti che poi alla fine purtroppo hanno portato l'Italia esattamente all'eurocronaca che vediamo, ma dall'altra è diventato anche un tema sul quale spesso gli schieramenti di parte e lo scontro di parte prevale sul merito. La cosa singolare e la cosa interessante, nuova, e per questo ho deciso di parlarne, è che nelle ultime settimane intorno alla vicenda tra il Quirinale, Giorgio Napolitano, le intercettazioni, la procura di Palermo, è montato un confronto di toni crescenti e con personaggi di prima fila che incrociano le lame sui quotidiani di riferimento della sinistra, quindi Repubblica da una parte, Il Fatto Quotidiano dall'altra, e lo scambio di toni è diventato uno scambio di colpi, di salve di artiglieria, per così dire. E quindi l'interesse di questa vicenda è da una parte, e lo dichiaro come sempre, io dichiaro sempre il mio punto di vista, nel merito io ho firmato l'appello del Fatto Quotidiano, provocando grattate di testa sia di alcuni ascoltatori miei, sia so da colleghi del Fatto Quotidiano, anche di colleghi del Fatto Quotidiano, si sono grattati la testa perché nel merito, sapete, la vicenda è relativa a colloqui nei quali utenze del Quirinale sono finite in intercettazioni che erano state legalmente disposte secondo la norma vigente della Procura di Palermo. Io ho fatto una puntata appena la vicenda esplose con Marco Travaglio, ho fatto spiegare a lui e mi sono dichiarato d'accordo, così resto, sul fatto che, come in passato è avvenuto quando in utenze legalmente intercettate sono finiti dentro ministri, politici, presidenti del Consiglio, Berlusconi, Fassino, D'Alema, in altre parole, come in quella vicenda la loro richiesta di automatica, per così dire, decadimento dall'intercettazione della loro utenza in quanto non intercettati e titolari di un regime particolare di tutela del nostro ordinamento era tecnicamente e legalmente infondata. Allo stesso modo la cosa riguarda il Quirinale anche alla luce delle prerogative dell'articolo 90 che la Costituzione dà al Quirinale, e quindi io ho firmato l'appello. Questo è il merito, ho firmato l'appello del Fatto, che dice il Quirinale non fa eccezione, non c'è un caso tale per cui occorresse montare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, ma questo riguarda la mia opinione del merito. La cosa interessante di cui parliamo oggi in questa prima parte della trasmissione è che lo scambio è diventato sempre più pesante. Siamo arrivati anche a interviste come quella di Luciano Violante, in cui si dice che c'è una parte di giornalismo, Il Fatto Quotidiano, e una parte della sinistra, cioè Di Pietro eccetera eccetera, che ormai brandiscono posizioni come quella della Procura di Palermo con una vera e propria demagogia, a fini di demagogia politica, in altre parole, di populismo demagogico. È un'accusa pesantissima. Era di solito l'accusa che la sinistra rivolgeva alla destra, la destra rivolgeva alla sinistra. Il problema non è tanto la differenza che sia invece che destra e sinistra, pezzi di sinistra o pezzi di giornalismo vicini alla sinistra. Il problema è, secondo me, come sempre, il merito. Che cosa ci dice questo tono così aspro intorno alla vicenda, e che cosa ci preannuncia in ordine a questo tema, la giustizia, rispetto alla vita di noi tutti, ecco, al di là di quello che ne possiamo pensare politicamente. Io invito tutti a leggere, da una parte richiamo l'editoriale di Scalfari domenica scorsa su Repubblica, in cui ha attaccato vigorosissimamente Gustavo Zagrebelsky, che è un punto di riferimento della stessa associazione civile che Repubblica sostiene da sempre, quella diretta da Sandra Bonsanti, e Scalfari ha accusato Gustavo Zagrebelsky di aver dimenticato cose fondamentali del nostro ordinamento e quindi di essere anche lui tra coloro che attaccano Giorgio Napolitano. Ma leggete oggi la replica che sul Fatto Marco Travaglio dedica all'articolo di Scalfari di domenica scorsa, in cui si smonta, si controbatte, ma secondo me si smonta pezzo per pezzo gli argomenti fondamentali che Scalfari ha usato domenica contro Zagrebelsky. Il titolo del pezzo di Travaglio stamane è: Scalfari, quante bugie in un solo editoriale, riesce a sconfessare Falcone, la procura di Palermo e se stesso. La tesi di Travaglio, oltre che nel merito, è: ma come, Scalfari in passato ha lui per primo criticato tante volte capi dello Stato, da Antonio Segni, da Giovanni Leone, a Francesco Cossiga. Forse che il capo dello Stato è criticabile e attaccabile solo quando non piace a Scalfari, si chiede Marco Travaglio. Allora, in questa prima parte della trasmissione due voci a confronto su questo tema, chiedendo anche a voi a casa come la pensate. Ricordo a tutti il numero verde 800 24 00 24 per prenotarsi per le telefonate, i messaggi sms 349 238 6666. Nella seconda parte della trasmissione, non solo la giustizia che divide ma la giustizia che decide, torniamo sulla vicenda dell'Ilva, perché come promesso ieri abbiamo le voci dei rappresentanti del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, che ieri non siamo riusciti a proporvi perché lavoravano, erano in turno di lavoro all'Ilva, e io credo fondamentale per una completa informazione dar voce anche a chi ha contestato i sindacati, perché sostiene che i sindacati sono troppo vicini alla linea dell'azienda e dicono dall'interno dell'Ilva: guardate che qui la situazione non è mai intollerabile. Ha ragione il GIP Todisco, che a differenza del riesame, ieri c'è stato il deposito delle 124 pagine del riesame, lo trovate oggi illustrato sui giornali. Ha ragione il GIP Todisco, dicono i rappresentanti del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, bisogna stoppare la produzione, l'unica cosa è continuare che tutti i lavoratori abbiano il reddito, impegnati nei lavori di bonifica. E quindi nella seconda parte della trasmissione sentiremo la loro opinione intorno a una giustizia che divide e che decide. Allora, intanto iniziamo a capire che cosa ci dice questa polemica Repubblica, Fatto Quotidiano, così altro. Abbiamo con noi Federico Geremica, giornalista della Stampa, ed è anche, oltre che un osservatore che conosco da tanti anni della vita italiana su queste vicende, colui che ha raccolto poi l'opinione tagliente che ho ricordato di Luciano Violante. Buongiorno e grazie a Federico Geremica. Ciao Oscar, buongiorno, buongiorno a tutti. E Bruno Tinti, che è un ex magistrato, scrive sul Fatto Quotidiano, spesso ospite dei nostri microfoni. Saluto e ringrazio Tinti, buongiorno. Buongiorno, dottor Gendino. Allora, Federico Geremica, che cos'è il fatto che con l'estate i giornalisti gli si alza la pressione? Non credo. Invece, che cosa ci dice di questa divisione sul caso Quirinale così aspra tra Scalfari e Repubblica da una parte e chi come Gustavo Zagrebelsky fa parte dello stesso mondo? Non c'è neanche la concorrenza editoriale nel caso di Gustavo Zagrebelsky, che capisco da un certo punto di vista, tra Repubblica e il Fatto Quotidiano. Che cosa avviene secondo te? Ma guarda, ci dice secondo me una prima cosa di ordine più generale che dovrebbe un po' preoccuparci, e cioè ci dice che molto probabilmente la prossima campagna elettorale, come molte altre delle precedenti, tornerà ad essere combattuta su questi terreni, cioè sul terreno della giustizia, insomma le cose che dicevi un po' tu. E poiché naturalmente, diciamo, quando si fa battaglia politica c'è dentro tanta propaganda, molto spesso, diciamo, il confronto è improduttivo, pericoloso e soprattutto, diciamo, trascende anche dal merito delle questioni, come mi pare onestamente, diciamo, stia accadendo anche per la vicenda che ha contrapposto il Quirinale alla Procura di Palermo. Diciamo, quindi questo secondo me è un primo dato di ordine più generale. E secondo me c'è da preoccuparci, perché se in questa campagna elettorale noi vedremo in campo, diciamo, personalità, se Berlusconi dovesse confermare come Berlusconi, contrapposto, diciamo, ad altre personalità come Beppe Grillo e Antonio Di Pietro, noi potremo sentirne veramente di tutte, diciamo, in campagna elettorale. Non so con quanto, diciamo, beneficio per l'immagine del paese all'estero, diciamo, che è tema sul quale Monti da mesi lavora per recuperare un po' di credito. Nel merito, diciamo, è certamente sorprendente, come dici tu, la divisione molto aspra che si è aperta in un fronte che era fino a ieri molto unito, diciamo. Non a caso dalla destra arrivano più che invettive ironie, no? Cioè, adesso Violante dice le cose che diceva Berlusconi, eccetera, eccetera. Qual è la ragione di questa divisione, al di là del merito, perché poi c'è dottor Tinti che può intervenire con più competenza di me, ma io credo che il merito non meritasse, diciamo, appunto, tutta questa polemica. E beh, c'è una dislocazione di forze politiche, diciamo, nel centrosinistra che va modificandosi. Penso all'uscita ormai di fatto di Antonio Di Pietro dall'alleanza di centrosinistra. Insomma, e Di Pietro è il riferimento di un'area, diciamo, anche legata a settori, a parti del mondo della magistratura e non solo, eccetera, che di conseguenza quasi inevitabilmente, diciamo, si ricolloca, inasprisce o ammorbidisce alcune sue posizioni, e questo può portare a divisioni all'interno di un fronte che era molto unito. Io però insisto, e mi piacerebbe sentire anche l'opinione del dottor Tinti, sul fatto che il merito, in realtà, tutta questa polemica non se l'è guadagnata sul campo, e che in fondo poi a decidere se Quirinale abbia fatto bene a sollevare, diciamo, il conflitto di attribuzioni, se c'è un ostacolo al lavoro della procura di Palermo, insomma, più che Scalfari e Travaglio, visto che ormai è stata chiamata in causa, insomma, sarebbe opportuno decidesse la Corte e noi stessimo un po' più sereni in attesa di quella decisione. Sentiamo subito l'opinione del dottor Tinti su se il merito non intanto meritasse così tanto come dice Federico Geremica, e se l'interpretazione sia soprattutto la ridislocazione di pezzi di sinistra, cioè Di Pietro esce dall'alleanza e su questo i toni, quindi intorno alla vicinanza, la contiguità, chiamate contiguità, sembra che sia una complicità, quindi è sbagliato, ma insomma la vicinanza, l'immedesimazione della tradizionale di questi anni della difesa da parte della sinistra delle procure venga meno anche per questo. Tinti, che dice? Ma cominciamo dalla seconda parte. A me piace pensare che persone intelligenti e colte affrontino il merito sulla base delle loro opinioni, delle loro conoscenze, della loro preparazione professionale, che l'affrontino nel quadro di una lotta politica, immagino che sia vero, però convenite con me, è abbastanza deludente, insomma, che una persona si metta a sostenere una tesi solo perché gli porta vantaggi politici, purtroppo avviene, ma è squalificante per chi lo fa. Quindi io spero che quelli che sono dalla parte giusta, secondo me, assumano questa posizione perché ci credono e non perché gli fa comodo. Detto questo, io penso proprio che mai come in questo caso, da un punto di vista giuridico, il torto sta tutto da una parte. Dovremmo cominciare da un fatto che non è stato mai trattato. Ne ho scritto io un paio di volte sul Fatto Quotidiano, ma l'argomento non è stato ripreso. Il 14 gennaio del 1947, pensi un po', i padri costituenti si interrogarono sull'opportunità di estendere al Presidente della Repubblica l'immunità già ovviamente decisa per i parlamentari. Si chiesero, se si va a vedere le appendici, titolo secondo, parte seconda, argomenti o articoli non entrati nella Costituzione, immunità civile e penale del Presidente della Repubblica. Si chiesero, ma il Presidente della Repubblica è bene che sia immune, che venga riprodotta per lui quella previsione, la persona del re è sacra e inviolabile? E dissero di no. C'è tutto un lungo dibattito molto interessante e si stabilì no. L'unica immunità riservata al Presidente della Repubblica è quella per gli atti connessi alle sue funzioni, ma se commette un reato di qualsiasi tipo, se ammazza la moglie, deve essere processato direttamente come ogni cittadino. Perché cito questa cosa? Perché qui il conflitto, nelle migliori delle ipotesi, dalle persone che dicono che in effetti c'è un problema concreto e dicono questa cosa credendoci, sarebbe basato sulla necessità di coprire un vuoto legislativo, così abbiamo letto dappertutto, ma il vuoto legislativo non c'è. Il caso venne esaminato dalla Costituzione e venne escluso. Quindi il primo problema è: non è vero che il Presidente della Repubblica ha un'immunità generale nella quale dovrebbero rientrare anche le intercettazioni e le intercettazioni indirette, come nel caso di specie. Quando Napolitano non è incriminato né per atti connessi alle sue funzioni, né ovviamente per alto tradimento e attentato alla Costituzione, per tutto il resto è un normale cittadino. Le intercettazioni indirette, che ricordo per i parlamentari possono essere utilizzate solo previa autorizzazione della Camera di pertinenza, per Napolitano sono utilizzabili come sono utilizzabili nei miei confronti o nei suoi. Quindi, e questo, a dire la verità, anch'io avevo capito che nel nostro ordinamento così è. Però naturalmente mi taccio, perché forte solo della mia laurea, di un concorso in magistratura, mi taccio. Però io anche sono di questa, esattamente di quello perché, che... Ma è evidente, è scritto così proprio in Costituzione. Però, vabbè. Dice l'articolo 90, il capo dello Stato non è perseguibile per gli atti connessi alle sue funzioni. Sì, infatti. Adesso, secondo voi, se Mancino telefona direttamente al capo dello Stato e noi non sappiamo che cosa gli ha detto, mi consente di aprire una parentesi, io proprio di politica non capisco niente, ma se c'è un errore politico è questo. Io non so che cosa si siano detti, forse si sono detti delle cose gravissime, ma la cosa migliore da fare era dire: ma che diavolo volete? Ci siamo conosciuti per una vita, siamo stati ministri insieme, abbiamo fatto politica insieme, ma ha telefonato per piangere e lamentarsi. Ecco il testo. E questo naturalmente però riguarda quello che può pensare lei o io di cosa avremmo fatto se fossimo stati tribunali. Però restiamo al merito. Nel merito, il nodo giuridico secondo me è quello che ha toccato lei, ma sulla sostanza di quello che diceva Federico Geremica, cioè sono pezzi di sinistra che si dividono. Lei ha detto: io spero che non sia così, perché si finisce per pensare altrimenti di dover dire ciò che serve invece che dire ciò di cui si è convinti. Ma questo fatto della sinistra che si spacca e che in campagna elettorale brandisce anche la divisione sulla magistratura, come un tempo facevano destra contro sinistra, ma non sinistra contro sinistra, anche secondo lei è così, conta, pesa e sarà il domani della campagna elettorale o no, Tinti? Io spero di no, veramente spero di no. Voglio dire, capirei una lotta politica, per esempio incentrata sul caso dell'Ilva. Lei ha parlato di queste cose con riferimento alla seconda parte della trasmissione. Io mi sono molto occupato dell'Ilva sulle colonne del Fatto Quotidiano. Quello è un problema, al contrario di questo, veramente di soluzione difficilissima, e coinvolge le sorti del paese e, da un punto di vista politico, sì, l'atteggiamento di ogni parte politica nei confronti di un problema come questo. Lì sì che si può fare lotta politica. Io sono per la ripresa dell'economia anche a costo di trascurare la salute dei lavoratori. No, la salute, capisce? No, sono temi che altro che assolutamente fondamentali, su cui io posso capire che si imbastisca una lotta politica, magari anche contro le proprie convinzioni personali. Lì paga, ma si può pensare a una lotta politica così meschina, sfruttando la contrapposizione di quello che secondo me nel caso di specie è un privato cittadino e che ha commesso un'imprudenza, forse è stato mal consigliato, contro una procura. Intanto però il calore incendiario che ha assunto tra Repubblica e Il Fatto, e anche nei commenti politici, interviste come personaggi come Luciano Violante, non devo spiegarle io quanto pesino nella storia politica italiana su questi temi, fanno purtroppo pensare il contrario. E quindi sarà, forse, sono d'accordo con Geremica su questo, più che con lei, Tinti, un altro dei temi su cui divampa l'incendio e si perde di vista il merito, che da sempre uno dei peggiori difetti, secondo me, del confronto pubblico italiano. Ma ora dobbiamo andare in pubblicità e poi nella seconda parte torniamo occupandoci appunto dell'Ilva. Eccoci qua in questa seconda parte di questo martedì 21 di agosto, cari radioascoltatori. Come ho detto all'inizio della puntata, questa seconda parte della trasmissione la dedichiamo a un prosieguo dell'analisi e dei commenti che abbiamo offerto ieri lunedì sugli sviluppi in corso sul caso dell'Ilva di Taranto. E poiché ieri, come vi ho detto all'inizio della trasmissione, non siamo riusciti ad ospitare una delle voci di cui secondo me è obbligatorio dar conto per come stanno andando le cose, e noi non siamo riusciti ad averli con noi ieri, i rappresentanti del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, perché lavoravano e quindi erano più che giustificati. Ecco che oggi abbiamo reso possibile un collegamento con loro. Ricordo a tutti, lo trovate sui quotidiani con diffusione ed evidenza stamane, che ieri c'è stato il deposito di 124 pagine del Tribunale del Riesame, che ha detto no al fermo obbligatorio della produzione nella colata a caldo che era stato disposto e ridisposto dal GIP Todisco, ma le 124 pagine nel dare ai custodi amministrativi e giudiziari dell'azienda nominati dal Tribunale il compito di essere loro a giudicare quale tipo di misure assumere rispetto a chiusure temporanee, chiusure parziali, perché il Tribunale del Riesame ribadisce che la cosa essenziale è la bonifica. Devo aggiungere, le 124 pagine sono piene di valutazioni da parte dei tre giudici molto pesanti nei confronti delle responsabilità negli anni avute dall'azienda, il comportamento doloso che la fattispecie più grave di quelle penali affibbiate dal PM nell'indagine di 3 anni ai vertici della società viene sposato dal Tribunale del Riesame e quindi non solo dal GIP. Si parla di condotte molto gravi assunte per molti anni dall'azienda in totale disadempimento di ciò che era stato chiesto anche dall'autorizzazione integrale ambientale precedente. Sapete che si sta lavorando alla nuova autorizzazione per il prossimo settembre. Di fronte a tutto questo è nato nel movimento della città un movimento che intorno al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha anche detto al sindacato che si batte per la continuità: state sbagliando, perché la sicurezza di chi lavora e della popolazione deve venire prima a qualunque costo per l'azienda. Quindi oggi abbiamo con noi Cataldo Ranieri, buongiorno. Buongiorno a voi. E Massimo Battista, buongiorno. Buongiorno. E io per un quarto d'ora farei raccontare a loro come e perché, come vivono loro la situazione da lavoratori dell'azienda e che cosa hanno pensato in tutte queste settimane e cosa pensano rispetto a ciò che si debba davvero fare con l'occhio di chi ci lavora dentro, ci butta la vita e naturalmente pregiudica anche la propria vita lavorandoci su questo terribile braccio di ferro che c'è tra lavoro, sicurezza e salute. Allora iniziamo con Cataldo Ranieri. Innanzitutto, questa cosa del Tribunale del Riesame in voi che tipo di accoglienza giudizio suscita? Ovvero io vorrei ringraziarvi per lo spazio che ci date, perché così possiamo anche parlare ai lavoratori che sono, non dimentichiamolo, sono nostri colleghi. Qualcuno ha dato dei messaggi sbagliati anche con i sotterfugi sugli impianti, vabbè, ma non stiamo a polemizzare su questo, così si chiarisce una volta per tutte perché è nato il comitato. Comitato è nato perché noi lavoratori, che siamo anche cittadini e abbiamo le nostre famiglie in questa città, abbiamo stabilito che è una scelta di giustizia essere contrari al fatto di anteporre assolutamente il profitto per pochi, non certo per la cittadinanza, alla nostra salute e alla salute dei cittadini, perché anche noi respiriamo i veleni come li respirano i nostri concittadini e i nostri familiari. Per cui è finito il tempo in cui l'azienda può utilizzarci come muscoli per far vedere che se qualcuno osa chiedere qualcosa in più rispetto a quello che già abbiamo, la risposta è che io metto tutti per la strada. Noi da questo ricatto siamo usciti, perché rispetto alle pecore che sono state abbattute qualche tempo fa, che pascolavano anche a 20 chilometri allo stabilimento, noi rispetto a loro forse abbiamo una sfortuna in più. Le pecore sono state ammazzate tutte, noi moriamo un po' per volta in quello stabilimento e tutti i lavoratori lo sanno, non ce lo possiamo nascondere, perché i manifesti li abbiamo condivisi insieme, perché insieme, siccome siamo uno di loro, noi ne parliamo in fabbrica, i lavoratori sanno che non si può continuare così per noi e per la città, lo sanno benissimo. Comunque nasce perché sia chiaro che si deve pensare prima alla città e ai lavoratori, prima di qualsiasi decisione, o con la fabbrica o senza fabbrica, e sia chiaro che sia i lavoratori che i cittadini non vogliono più essere avvelenati. Se sono in grado di garantire questo, bene, se non lo sono in grado, allora si facciano carico di tutti i danni fatti in 50 anni di ruberie, vessazioni, corruzione. Spero di essere stato chiaro. No, è chiarissimo. Lei dice qui c'è una priorità e questa priorità deve venire a questo punto prima delle considerazioni in ordine alla continuità del processo produttivo e dell'azienda privata. Massimo Battista, le chiedo, ai lavoratori che dicono sì, però se noi chiediamo la sospensione che fine facciamo, non per i profitti dell'imprenditore, dei Riva, ma sui redditi di chi ci lavora? a questi colleghi che poi sono andati in piazza a dire continuare, voi che cosa dite? Innanzitutto per confermare quello che diceva Aldo, il primo punto dell'ordinanza che fa il GIP Todisco parla chiaro che i più colpiti e vessati sono i lavoratori, e già questo è tutto dire. Perché io sfido chiunque, chi mai in questi anni si è mai preoccupato di tutti quei lavoratori che all'interno di quella fabbrica ci lavorano. Perché non c'è stato mai fatto, non ci sono state mai fatte delle visite specialistiche all'interno di quella fabbrica dove i lavoratori ogni giorno vanno ad operare. Mai perché fatte? No, vengono fatte, ma vengono fatte delle visite mediche che secondo il nostro punto di vista non sono idonee. Infatti si risulta che ormai anche i raggi vengono effettuati ogni 4 anni. Detto ciò, i lavoratori devono sapere benissimo che chi ha causato questo disastro si deve assumere le responsabilità. In primis lo Stato italiano, che fino al 95 era lui proprietario. Ed è stato proprietario, e era svenduto questo stabilimento per 2 denari. E poi il gruppo Riva. Riva, solo dal 95 ad oggi, ha fatto solo ed esclusivamente profitti. Gli unici profitti che Riva ha investito sono stati solo per entrare in quota in società come l'Alitalia. Quindi lei, Massimo, se capisco bene, dice è una falsa alternativa, nel senso che i lavoratori devono essere messi in condizione di continuare a ricevere il loro reddito. Certissimo. Mentre tutte le attività solo per la bonifica devono diventare un grande cantiere di bonifica, capisco bene? Giustissimo, è giustissimo, perché qua c'è tanto da lavorare. Poi se l'Riva sarà in grado di ottemperare alle 416 prescrizioni che ci sono nelle ordinanze, ben venga. Ma se per fare tutto ciò ci vogliono dei soldi, ma tanti soldi, e questo secondo il nostro punto di vista dal primo momento non l'abbiamo mai visto. Se arriva in grado di ottemperare tutte le prescrizioni, noi saremo i più felici del mondo, ma allo stesso tempo siamo convinti che questo non avverrà. Cataldo, una domanda: quando io ho letto che l'età media negli anni si era abbassata rispetto a quando lo Stato era proprietario, c'era un'età media dei lavoratori all'Ilva di Taranto molto molto elevata, quando si entra all'Ilva, ci si entra, per come lei conosce tra colleghi eccetera eccetera, ci si entra per la disperazione che non c'è lavoro secondo lei, o c'è ancora poi un orgoglio di far parte di un più grande insediamento produttivo dell'acciaio? Guardi, questa l'ultima cosa che ha detto era quella che pensavo io quando sono entrato in quella fabbrica, prima di conoscere veramente come funzionano le cose. Però se facciamo la stessa domanda su 12.000 lavoratori che stanno dentro quella fabbrica con cui noi parliamo, le assicuro che nessuno, se avesse un'alternativa, nessuno andrebbe a lavorare là dentro. Questo glielo posso mettere per iscritto. Chi è che invece di fare un lavoro che fa vivere sarebbe disposto a fare un lavoro che si sa che si uccide, che ti uccide? Perché noi i manifesti fuori le portinerie li vediamo tutti quando entriamo, Parliamo di Michele 50 anni, Giovanni 52, i lavoratori questo lo sanno benissimo. E mi dispiace che ci sia ancora chi difende gli artefici di questa disfatta. Non siamo noi i lavoratori, noi siamo le vittime. Noi siamo le vittime, come la città di Taranto è vittima di un profitto per pochi. Siamo una città con un dissesto. Nonostante tutti i veleni che ci respiriamo fra Cementir, Eni, Ilva, Marina Militare, è una città che ha il 40% di disoccupazione. Ma vi rendete conto in che disperazione siamo, che dobbiamo tenerci un lavoro che ci uccide, altrimenti siamo per la strada? No, anche l'opinione di Cataldo è chiarissima. A Massimo chiedo, io non voglio farvi polemizzare, non voglio trascinarvi in polemica che non volete fare, perché io rispetto il punto di vista di chi sta lì dentro, ci mette il polmone e dice questa è la mia opinione, sto tentando solo di darvi il microfono e farvi parlare. Ma dalle parole ultime di Cataldo, implicitamente ricavo che i sindacati, o almeno CISL, UIL, la FIOM ha una posizione un po' diversa, nel canale pesce, CISL e UIL sono per la linea della quella che il governo chiama la ragionevolezza. Nella vostra opinione, gli iscritti al sindacato nell'acciaieria, cos'è? Sono un sindacato giallo? Non è vero che la pensano così? Sono vittime della paura anche loro di perdere il reddito, Massimo? Allora, le posso garantire che gli iscritti all'interno dello stabilimento sono la metà della forza lavoro, e già qui è un primo problema. Un secondo problema è che tutti gli iscritti all'interno di quella fabbrica non hanno fiducia nei sindacati, in tutti e tre, perché anche sulla FIOM bisogna puntualizzare, fino al 26 e 27 luglio la FIOM è scesa in campo con firme UE, poi all'improvviso, non lo so, l'avvento della Peccata ha fatto cambiare pensiero a qualcuno, perché qui si predica bene e si razzola male. è che stare a 1000 chilometri di distanza e venire qui a cantarsela, a suonare, e non va bene assolutamente, perché si sapeva benissimo all'interno di quella fabbrica che prima o poi sarebbe successo tutto ciò. In questo momento all'interno della fabbrica il sindacato, secondo il nostro punto di vista, fa solo sindacato patronale, solo consegne di documenti, la gente non si sente rappresentata. Aldo, dal punto di vista della rappresentanza politica locale, il comune di Taranto, la regione Puglia, in questi si sono svegliati tutti tardi. Com'è possibile che chi ha la rappresentanza della città, che ha un impatto così forte da decenni, da tempo immemorabile, di questo tipo di acceria, sembrano tutti un po' caduti dal pero rispetto agli sviluppi che la magistratura ha dato con le sue ordinanze? Che opinione ha, Cataldo? Rispondo subito a questa domanda. Volevo soltanto completare un attimo il ragionamento sul sindacato, se è possibile. Certo. Il sindacato ha detto e dice, continua a dire, che è sia per l'ambiente che per il lavoro. Purtroppo ha avuto un'occasione per dimostrarla, che è stato il giorno della nostra manifestazione, ovvero invece di programmare 30 ore di sciopero come è stato fatto fino adesso per difendere l'azienda, per difendere il lavoro, poteva programmare anche 8 ore di sciopero quando c'era la manifestazione e dare la possibilità ai lavoratori di aderire se avessero avuto un pensiero diverso, e soprattutto con i fatti avrebbe dimostrato che ci tiene. Ma purtroppo, cioè, lei dice, per come hanno indetto, certo, i loro scioperi era una specie di strategia di sabotaggio verso la possibilità di aderire alla vostra manifestazione. Non solo, cioè, loro i scioperi che hanno programmato sono per la tutela del posto di lavoro, però dicono sempre che sono anche per l'ambiente. Certo. Uno sciopero di 8 ore per l'ambiente però non è stato fatto, poteva essere fatto quando noi abbiamo organizzato la manifestazione per fare vedere a tutto il mondo: guardate che noi siamo anche per l'ambiente. E la politica, secondo lei? Locale. La politica, guardi, io non lo tocco neanche questo tasto, perché veramente è proprio indifferente. La politica di Taranto purtroppo è sempre stata a fare rapporto da una parte all'altra fino ad oggi. Io a tal proposito mi domando, un pediatra, che è l'attuale sindaco, che è molto più sensibile e non attenuante a questi ragionamenti. Per professione, lei dice, no? Esatto, 2 anni fa un'ordinanza per dire che in quella piazzetta non si può giocare, i bambini non possono giocare perché sono stati fatti rilevamenti molto alti di diossina. L'ordinanza, una volta fatta, non so che cosa è successo, se qualcuno presumibilmente è intervenuto per dire stai calmo, bello, perché l'ordinanza poi è sparita man mano, sono spariti i cartelli senza che sia stata fatta nessuna bonifica. Quindi anche quando il sindaco ci ha provato, in realtà è stato rimesso nell'angoletto, lei dice. Non avendo notizie per quale ragione un'ordinanza viene messa e poi viene improvvisamente fatta sparire, lui che cosa penserebbe? No, ma si figuri. Allora, Massimo, a questo punto il riesame dice ci pensino i custodi. Voi che tipo di strumenti di impegno e di lotta vi darete nel futuro, Massimo? No, innanzitutto, per quanto riguarda la politica, mentre il mio amico e collega Aldo si mantiene basso, io potrei dire che la politica a Taranto è inesistente, perché in questi ultimi anni sono state fatte delle scelte scellerate, ed è un esempio. Con la prima legislatura del sindaco pediatra di Taranto c'è stata l'inaugurazione delle fontanelle al cimitero di Taranto, e poi tantissime letterine di Babbo Natale scritte così, tanto per scrivere, per fare una letterina, ed è una riprova di venerdì fare una lettera al presidente del Consiglio Monti per ringraziarlo della venuta dei due ministri. Ma ci vogliamo rendere conto che venerdì non è stato deciso assolutamente niente a Taranto, è stata solo passerella politica, ed è oggi una conferma, mi ricollego alla sua domanda, che l'esame ha riconfermato che non ci deve essere facoltà d'uso. È chiarissimo quello che lei sta dicendo. La lingua italiana è tutto da interpretare. È testuale la cosa dell'esame. I curatori fallimentari, ma secondo lei cosa fa? Lei quando va a aggiustare una macchina non è che ce l'ha col motore acceso? No, questi giusto? non sono fallimentari, ma sono curatori e devono attuare la bonifica. Questo è inequivoco nelle 124 pagine. Infatti, quindi infatti, quello viene prima di qualunque altra cosa. E infatti è tutto da interpretare anche qui, perché sa benissimo che spostare una virgola si interpreta in una non pensate quindi che la nuova procedura di autorizzazione di settembre possa essere risolutiva? No, perché Ma già se il ministro Clini è partito col piede partite sbagliate, veramente non è mai partito secondo me, perché uno che dichiara che a Taranto non porterebbe mai i suoi figli a vivere, quindi già suoi nipoti, dovrebbe, i suoi nipoti, dovrebbe dare già le dimissioni per solo per quello che ha detto. Parte col piede sbagliato, perché se dice che la copertura dei parchi minerali non è fattibile, non si può temperare per la comunità europea che non lo prevede, già parte male, perché il problema di Taranto, oltre alla diossina, sono proprio la copertura dei parchi minerali. Ma l'abbiamo spiegato anche ieri, sì, per la modalità in cui sono all'aperto le materie prime da cui si poi fa la lavorazione, è di lì che vengono le polveri e il più, la diossina è cosa diversa, ma le polveri e il più delle sostanze intossicanti, più dell'anidride carbonica, che è l'effetto naturalmente della produzione di acciaio dal ferro e dal carbone. E torniamo col mio Morrison Doors, che vi ricorda che le cose stanno come stanno, vi ricorda che sul Messaggero Gazzettino Mattino, oppure sul mio Chicago blog www.chicago-blog.it e anche sul sito www.fermareildeclino.it trovate la mia analisi di ieri sera su come e perché i tedeschi si stiano inoltrando una campagna elettorale che ci riserverà comunque mesi molto difficili. Per il dopo Monti ci sono impegni seri che l'Italia dovrebbe prendere con se stessa per un dibattito politico e un impegno politico diverso da quello che si vede. Su questo io vi invito solo a leggere quello che trovate sul sito www.fermareildeclino.it e a giudicare. Giudicare però in termini un po' diversi da come alcuni ascoltatori, ce n'è uno in particolare che mi sta molto simpatico perché sta tamburando tutta la puntata con rime tra Giannino e Travaglio, dice Giannino Travaglio nelle piazze col pendaglio, Giannino e Travaglio che orribile brodaglio. Cosa voglio dire? Vuol dire che molti ascoltatori dicono: ah, ma come? Tu eri liberale, adesso hai invitato Travaglio una volta, adesso inviti Tinti, ma com'è? Non stai con l'usbergo abbassato, la spada e la scudo a difendere come dovrebbero fare tutti i liberali napoletano? Ma io vi chiedo, ma perché siete così tanto abituati a ragionare e a dividervi solo per partito preso? Io guardo il merito. Ripeto, ciò che non è valso per Berlusconi, D'Alema e Fassino non può e non deve valere ordinamento alla mano, nel merito neanche per Giorgio Napolitano. Se poi Giorgio Napolitano è la testa del governo Monti, e questo dovrebbe farci cambiare idea nel rispetto al merito, è perché ragionate male voi. È perché il mio compito è spiegarvi che quello che conta è il merito, non chi è amico di chi. Se questo mi porta a firmare un appello del fatto, perché nel merito la penso come il fatto, questo non significa che sono diventato di pietrista, e sbagliate voi a continuare a ragionare come degli stupidi votanti di Berlusconi a vita, perché vi ha detto una volta che è anticomunista, continuate a crederci. Credeteci pure, ma i risultati dovrebbero aprirvi gli occhi su quello che conta è il merito, non chi è amico di chi. Leggete oggi la divertentissima lettera che Piero Stellino rivolge a Giuliano Ferrara sul Foglio, dove è quello che conta, né da una parte né dall'altra il merito, ma è che quello che dice Piero Stellino, questo è un governo di tecnici, e Ferrara dice sì, però Monti è meglio perché ci traghetta verso una cosa. È sul merito che io dico che questo governo non ha cambiato le politiche precedenti, sul merito, cioè sulla spesa, sulle tasse, sul debito, ed è sul merito che bisogna cambiare. Forse quando inizieremo a ragionare sul merito ci saremo liberati di una bella eredità di tossine di vent'anni. Nel frattempo invece mi fa molto sorridere che molti di voi dicono Giannino e Travaglio nelle piazze col pendaglio, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo come la pensate sugli argomenti di oggi, sulla giustizia che decide, che divide. Cominciamo con Laura che chiama dalla provincia di Roma. Prego Laura. Sì, buongiorno Giannino. Io volevo dire che semplicemente che la vicenda di Napolitano è semplicemente imbarazzante. E la sinistra, purtroppo, io uso parole dure, la sinistra peggiore, quella di Violante, quella di altri personaggi, che sono state figure molto contraddittorie, farebbero meglio a fare chiarezza su questa cosa, perché sulle vicende di Falcone e Borsellino credo che molte delle generazioni politiche si giocano il loro ruolo, e se non fanno chiarezza su queste cose credo che non ci sarà futuro per la sinistra, tanto per rispondere alla domanda sulla sinistra che si... Beh, un'opinione netta quella di là. Sentiamo Francesco da Caserta, prego Francesco. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono d'accordo con lei per quanto riguarda la questione del Presidente, però voglio dire, io sento un sacco di sciocchezze in televisione, nelle radio, eccetera, relativamente proprio alla questione economica italiana. Nel senso che è logico che non si può mai crescere se non c'è una spesa pubblica. E sa perché? Ma una spesa pubblica con moneta non a debito, cioè non chiesta a prestito dalla Banca Centrale Europea, che è una banca privata. Non so se è chiaro il concetto. Francesco, il concetto non è che è chiaro. Lei appartiene a una lettura sulla quale non c'è tempo, perché non è una banca privata, l'ho spiegato 100 volte, non mi interessa troppo dedicare tempi alle letture alla Paul Barner, che vi ha spiegato che le banche centrali sarebbero tutte nelle mani di banchieri privati. Non è così, Francesco, è una sciocchezza. E la invito a leggere cose un po' diverse da quelle che Barnard e i suoi amici dicono, ripetendo come ossessi che chiunque tenta, manuali di politica monetaria alla mano, di spiegarvi il contrario, e lui a quel punto sbarra gli occhi e dice: servo delle banche. Ecco, lo invitano in televisione per fare audience. Francesco, ho il pieno rispetto di quello che pensa, ma quando sento dire che la banca centrale è privata interrompo la linea, perché c'è un limite oltre il quale non faccio un buon servizio a chi ci ascolta, Francesco, e non lo dico per mancarle di rispetto. Michelangelo da Milano, come la pensa Michelangelo? Michelangelo, per quanto riguarda il caso dell'Ilva, ritengo che la magistratura avrebbe dovuto indagare anche l'amministrazione comunale, in quanto avrà rilasciato tantissime concessioni edilizie con relativi certificati di abitabilità, che se l'aria è irrespirabile porta alla morte, insomma, alla fin fine non dovevano essere concesse. Lo so, però Michelangelo, la competenza quella per ambientale, molto più il comune che si occupa di aspetti relativi all'urbanistica e alla sicurezza semplicemente degli impianti, per così dire, per la parte relativa all'architettura urbana, e non è del comune. Comunque vedremo, perché ce n'è per tutti i gusti nell'indagine. Rapidissimamente ancora Monica da Genova, prego Monica. Buongiorno. Sono molto invidiosa di tutti i suoi ascoltatori fino adesso, che sono pieni di certezze e neanche un piccolo e lontano dubbio. Due cose. In merito alla questione del presidente Napolitano, le dico la verità, le parlo dal basso, da persona, italiana, che guarda la televisione, segue i telegiornali, legge i giornali. Il problema è che probabilmente una certa magistratura militante ha degradato se stessa, nel senso che dando prova di successi discutibili nelle proprie indagini, e la Procura di Palermo con recente magistratura... E quindi se ne fa usbergo, e questa è solo la cosa. E poi, oltre alla vicenda del Presidente, perché il secondo passo? Il secondo discorso ovviamente sempre in merito alla magistratura e sempre in merito anche all'Ilva. Dov'era la magistratura quando... È chiaro. Dov'era la magistratura? Su questo devo interrompere l'appuntamento a domani. Radio 24. La passione si sente.